Radio 24 Reportage. Bagnoli, storia di un grande bluff, di Carmelo Prestisimone. Guardi Bagnoli e pensi alle acciaierie dell'Ilva e dell'Italsider, agli altiforni che giacciono come totem nel deserto della periferia occidentale di Napoli. Ermanno Rea ne parlò nella sua dismissione di quella fabbrica orgoglio e vanto della Napoli del dopoguerra, che finì nel 92 in un silenzio assordante, dove i rumori dei lavori sul ferro prodotti dall'uomo e dalle macchine hanno lasciato il passo alla solitudine di una zona suggestiva e inespressa, ma ancora oggi ricca di potenzialità. Al circolo Ilva, nato nel 1909, punto di riferimento storico del quartiere, che si trova accanto a quel che resta di Città della Scienza, ritroviamo le memorie del luogo e nelle parole del presidente Vittorio Attanasio i motivi di un grande bluff. Perché la zona non decolla, non scopriamo l'acqua calda, non decolla per un motivo molto semplice, per tutte le cose che non sono decollate a Napoli. Se io ti devo dire la colpa di chi è o se ci sono colpe, non te lo so dire. Non decolla perché volontà molto molto più in alto di noi hanno deciso in questo senso. Non permetteremo che questo fatto continui. Città della Scienza vuole ripartire per riconsegnare a Bagnoli quel luogo, quel museo che tutta Europa invidia. Lo farà dal 13 aprile per mantenere un flusso più o meno costante delle scolaresche in visita. Occorrono 40 milioni di euro, forse di più, per rimettere in piedi lo Science Center distrutto dalle fiamme in quel nefasto 4 marzo. Mario Raffa, il presidente del comitato scientifico di Fondazione IDIS, ha studiato attentamente come riqualificare tutta la periferia ovest secondo un master plan attento e scrupoloso. L'idea che è nata negli ultimi anni è quella di mettere insieme tutte le preesistenze, e vale a dire la mostra d'oltremare, Bagnoli Futura, le Terme d'Ignano, Città della Scienza, il Parco dei Campi Flegrei e tutte le iniziative private che stanno sul territorio. Abbiamo individuato circa 150 opere che sono quasi complete. Si va dalla porta del parco al parco dello sport, ma anche, per esempio, al completamento della bonifica delle Terme di Agnano. Bene, il comune, la regione, la provincia, insieme a questi operatori, hanno lavorato nell'ultimo anno e mezzo per avere un vero e proprio piano operativo di sviluppo che mette insieme la sostenibilità ambientale, la green economy, la mobilità e l'educazione e la comunicazione scientifica, per avere due grandi progetti: uno un distretto tecnologico, un altro il distretto della cultura e del turismo. L'idea è quella di creare quella che in inglese si definisce smart city, ovvero città bella, elegante, con una qualità della vita migliore, che deve passare anche e soprattutto attraverso le strutture sportive. Ed è dal 98 che Napoli non ha più il suo palasport, il Mario Argento, teatro delle vittorie della Fides Partenope, che conquistò proprio a Fuorigrotta la Coppa delle Coppe nel 1970. Resta la carcassa di quella struttura, oggi scoperchiata per dei lavori partiti 15 anni fa ma mai conclusi. Vincenzo Iannucci è un imprenditore che ha presentato al Comune di Napoli l'unico progetto per rianimare, con la creazione di una cittadella dello sport, quello spicchio di quartiere diventata ormai discarica. È un progetto che parte dallo scheletro del Palargento, che è un'occasione mancata per Napoli e per la città di Napoli. La ricostruzione del Palargento sarà al centro di un progetto che riguarderà una serie di iniziative che riqualificheranno l'area di Viale Giochi del Mediterraneo, dando anche risalto alle funzioni già esistenti lì. I tempi per la ricostruzione della struttura? Siamo in procinto di presentare al Comune di Napoli il project financing, e quindi poi ci saranno dei tempi burocratici di approvazione del progetto. Chiaramente sarà pubblicato, sarà messo anche come bando pubblico, come prevede la legge sul project financing. Diciamo, per la fine dell'anno potremmo mettere la prima pietra. Un progetto che porterebbe migliaia di posti di lavoro, unico antidoto per battere la criminalità, sì, il lavoro. Guglielmo Santoro negli anni 70 era un tecnico siderurgico dell'Italsider ed è il genius loci dell'area. Tenga presente che quando c'era l'Italsider, il quartiere di Bagnoli era il quartiere al più basso indice delinquenziale della città di Napoli. Con la chiusura della fabbrica invece questo non è più così, è aumentata la delinquenza, diciamo spicciola, e sono aumentate pure le patologie a livello di patologie mentali, diciamo. Infatti il tasso di suicidi è aumentato notevolmente e anche la sofferenza mentale. Quindi che cosa vuol dire? Che il lavoro di per sé è l'unico antidoto verso la criminalità organizzata o meno. L'Italsider, non tanto l'Italsider, diciamo il valore del lavoro in quanto tale era un grosso deterrente per la criminalità a qualsiasi livello, anche perché parecchi potenziali delinquenti, una volta che venivano assunti all'interno dell'Italsider, prendevano, come dire, delle strade diverse da quelle che invece sono costretti a prendere oggi tanti giovani che non hanno più neanche uno sbocco occupazionale. A Bagnoli ci sono però tanti ragazzi e ragazze che hanno una gran voglia di creare il loro futuro qui alla periferia ovest di Napoli, dove oggi c'è pochissimo. Certo, la cartolina che rilascia il luogo è suggestiva, la costa che accarezza Nisida e che guarda Ischia, ma il conforto del paesaggio lascia il tempo che trova se mancano investimenti e idee. E quei progetti che erano stati fissati sono caduti dopo pochi mesi, dal Parco dello Sport al Turtle Point, per finire ai Bagnoli Studios. Tutti accantonati e chissà quando saranno presi di nuovo in considerazione. I giovani del quartiere però si battono e lo fanno in nome di un patto che li lega sentimentalmente al loro territorio. Io combatto tutti i giorni affinché in questa città, in questo quartiere, ci sia qualcosa che possa dare sviluppo ai giovani. Il nostro impegno è un impegno che quotidianamente viene rivolto, al di là dell'appartenenza politica, viene rivolto a fare in modo che questa città sappia di nuovo donare una speranza non solo ai giovani, ma anche ai meno giovani che in questi mesi stanno veramente soffrendo tanto. Io me lo auguro di avere un futuro qui a Bagnoli, perché il mio quartiere, ci sono cresciuto e voglio continuare a vivere in questo quartiere, perché comunque le mie radici sono fondate in questo quartiere, e mi auspico, diciamo, sia con il mio impegno, perché sia, diciamo, con la volontà politica delle istituzioni di crearmi un futuro e creare il futuro di tanti altri ragazzi del territorio, diciamo, che vogliono rimanere qui e che vogliono, diciamo, il bene per Bagnoli. Tu avverti la presenza della criminalità qui a Bagnoli, nel tuo quartiere? La presenza della criminalità in quanto criminalità organizzata non l'avverto in maniera, diciamo, esponenziale come si può avvertire in altri quartieri, però di certo è che comunque sostanzialmente questo quartiere, diciamo, è un po' abbandonato a se stesso, è un po' terra di nessuno, sia dal punto di vista politico che anche dal punto di vista criminale, e, diciamo, ci dobbiamo interrogare anche su quello che è successo a Città della Scienza e quali sono, diciamo, le dinamiche che hanno portato all'incendio. Questo ci fa percepire qualcosa di preoccupante. La criminalità esiste, purtroppo esiste qui, esiste in tutta la città, purtroppo sappiamo che ci sono evidenti infiltrazioni da parte della criminalità che si insinua proprio in quei processi in cui manca uno Stato forte, manca un'imprenditoria che riesca a emergere, un'imprenditoria sana fatta di trasparenza, fatta di competenze e soprattutto fatta di capitali che vogliono quindi trovare una destinazione. La mancanza di una presenza forte dello Stato e di una classe imprenditoriale capace di trascinare lo sviluppo della città manca, e su queste basi poggia poi l'infiltrazione e il fascino che la malavita riesce a infondere nei giovani. Bagnoli Futura, che gestisce l'area dell'ex Italsider, sta provvedendo a bonificare i suoli, ma anche qui il diavolo ci ha messo la coda. Omero Ambrogi è un ex magistrato ed oggi è il neopresidente della società. A Bagnoli, in Bagnoli Futura, ha portato avanti il 60% della bonifica dei suoli, il che non è cosa da poco. E se si è fermata a un certo punto e perché rispetto al piano di bonifica che era stato elaborato si è verificata un'evenienza nuova, cioè nel continuare i lavori di bonifica si è scoperto che esistevano dei giacimenti di amianto superiori a quelli che erano stati messi in evidenza da una prima caratterizzazione dei suoli medesimi, dovuti al fatto che nello smantellamento delle vecchie strutture dei complessi industriali, anziché portare al rifiuto questi i residui di questo smantellamento, venivano sotterrati in loco, il che praticamente ha comportato la necessità di dover rifare il piano di bonifica e naturalmente rifinanziarlo. Tutto ciò è accaduto a cavallo di un momento di difficoltà generale che tutti conosciamo e quindi c'è stato un rallentamento dei contributi. Napoli guarda ad ovest, dicono gli imprenditori, ma questo grande bluff rattrista tutti e non solo i napoletani. Non possono essere nelle prossime settimane le World Series della Coppa America di vela a restituire smalto e prestigio alla zona. Istituzioni ed enti dovranno rimboccarsi le maniche in modo serio e non alla solita maniera napoletana di vedere e fare le cose. L'incuria e la solitudine sono immagini inquietanti. Vivere nella noia è un castigo che Bagnoli non merita. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.